La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. E buon fine settimana anche da Franco D'Assisti, un saluto, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema settimanale di Radio 24. Settimana con parecchia carne al fuoco, nella classica ondulata situazione dei weekend estivi, dove tante volte c'è molto, tante volte c'è pochissimo. Questa settimana è una di quelle molto, il che non vuol dire sempre molto bello, ma insomma cose interessanti ce ne sono, ne parleremo fra poco con anche produzioni importanti, da Pacific Rim a Now You See Me, i maghi del crimine, che arrivano appunto in sala. Allora, cominciamo subito a farci la bocca un po' su quelli che sono i contenuti con i nostri titoli di testa. Robottoni contro Godzilloni. Pacific Rim mette in scena l'immaginario di Goldrake e Mazinga, rivisto attraverso lo sguardo visionario di Guillermo del Toro. Un giocattolone in 3D che appassiona i ragazzi di oggi e soprattutto quelli degli anni 80. Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin. Un trio da brivido nel cast di Uomini di Parola. Storia di delitti, castighi e amicizia tra tre gangster fuori luogo nel mondo di oggi, ma pieni di singolari valori da non perdere. Gli occhiali che non si trovano, una chiave che era proprio lì. Tutti i giorni lottiamo con piccoli appannamenti della nostra memoria breve. Ora quelle dimenticanze diventano un film, oggetti smarriti. Alla Rosa Purpurea il regista Giorgio Molteni. Premiata come attrice in commedia dell'anno col CineChuck d'oro, Claudia Gerini racconta il suo anno particolare e rivela un desiderio nascosto: fare l'eroina in un film d'azione. Allora, cominciamo da Now You See Me, che è il film con il quale vogliamo aprire questa puntata, un film che ha un cast di nomi veramente importanti, cito Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Melanie Laurent, davvero una vera corte quella di Louis Leterrier, il regista, che cerca di calarsi in una storia, in una vicenda che ha a che fare con l'illusionismo, con la magia, con l'action movie, con i grandi film di rapina. Mischia un po' tutti questi generi all'interno appunto di questo Now You See Me, i maghi del crimine. Allora, ascoltiamo questa clip dal film e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Questa sera noi rapineremo una banca. Prego, venga sul palco. E ora un piccolo dettaglio. Allora, Etienne, entriamo in questo marchingegno misterioso che le permetterà di viaggiare nello spazio e nel tempo. Uno, due, tre. Aspetta, eccolo, eccolo là. Etienne, che cosa vede lì dentro? Milioni. E saranno 3 milioni di euro, più o meno. Sul casco, non so da quale parte, ci deve essere un pulsante. Attiva un condotto d'aria che collega Parigi a Las Vegas. Attento, Etienne. Si regga forte. Buonanotte! Il fruscio delle banconote che inondano il grande palazzo dello sport o giù di lì di Las Vegas, nel quale questi quattro maghi stanno effettuando un, più che un esperimento, uno spettacolo di illusionismo, di quelli per cui si pagano fior di dollari per andarli a vedere, un po' la David Copperfield, ricorderete, no? Il mago che incantava le platee mondiali qualche anno fa. Ebbene, durante questo primo, iniziale spettacolo, sostanzialmente a distanza, con una sorta di teletrasporto, una banca a Parigi viene rapinata, visivamente rapinata, con i soldi che invece fioccano dentro il salone dove migliaia di persone assistono inebetite a questo incredibile spettacolo. Illusione, realtà, è chiaro che Leterrier chiede subito una certa complicità al pubblico, si entra in un campo che è quello dell'inverosimile, nel quale poi bisogna lasciarsi andare. In realtà su questa banda accusata di rapine, forse giustamente, forse no, chi lo sa, perché quando c'è di mezzo la metafisica tutto cambia, si butta direttamente Mark Ruffalo, che è un poliziotto che cerca di venirne a capo con tutta la sua grinta e con tutte le possibilità che ha in mano. Perciò ora ti avverto, io manterrò la mia determinazione più a lungo di quanto manterrai quella falsa arroganza e, nell'istante in cui si vedrà una leggera crepa in quella facciata spavalda, io ti prenderò. Io ti braccherò come se fossi un... Come se fosse un animale? Scusi, mi è sfuggito. La avverto io. Voglio che mi segua. Perché pensa di sapere molto, ma noi saremo sempre un passo, 3 passi, 7 passi avanti, e quando crederà di averci in pugno, spunteremo alle sue spalle. Sarà sempre esattamente dove io ho programmato, quindi può avvicinarsi, anche braccarmi, perché più vicino crederà di essere, in realtà meno vedrà. Io ti inchioderò! Prima regola di un mago, essere sempre quello più sveglio. Boris, buongiorno e ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea. Da una parte l'illusione, la magia, la rapina, dall'altra sicuramente il gioco del gatto col topo, i ladri contro i poliziotti, mischia un po' di generi, forse anche troppi questo film di Louis Leterrier. La mia impressione finale è che si sia davanti a un grande spettacolo che però svanisce nel ricordo 10 minuti dopo aver abbandonato la sala. Guarda, forse non sarei così severo, però è vero, nel senso che ti lascia lo stesso disagio che ti lascia un prestigiatore, nel senso che lui ti fa guardare altrove, ti distrae con il film per non farti vedere il trucco, in questo caso per farti vedere che il trucco non c'è, che il film non c'è sostanzialmente. Vero è però che nello stesso tempo ti diverti perché Jesse Eisenberg, a mio parere, è uno di quegli attori, di quei giovani attori che per il solo fatto di essere un po' alla De Niro, per il solo fatto di essere su uno schermo, già cattura la tua attenzione. Forse è un po' lui il trucco del prestigiatore, un po' perché venivamo da Red Eye con un Robert De Niro imbarazzante come ultimo film di magia e quindi avevamo bisogno di qualcosa di meglio, un po' perché però nel cinema moderno i termini di paragone sono The Prestige e The Illusionist, che sono chiaramente film molto più potenti e molto più strutturati. Leterrier è un mestierante, uno che sa giocare con il cinema di genere, qua fa un incrocio tra un heist movie, un film di rapina classico e appunto un film di magia. Secondo me, pur partendo dallo stesso criterio di Red Eye, cioè lo smascherare il truffatore, non è poi così male. Certo è che devi immaginare, come dici tu, che non c'è verosimiglianza e che in qualche modo devi anche accontentarti di quel poco che ti arriverà, cioè è un trucco, diciamo, ecco, non alla Copperfield ma magari alla Casanova, volendo fare una battuta. Nel complesso Leterrier secondo me si conferma quel regista che tecnicamente bravo, che sa insomma girare un po' tutto quello che gli chiedi, ma non è capace di fare un grande film. Per una serata estiva senza troppe pretese forse può anche andare bene. Assolutamente, con l'aria condizionata del cinema poi è perfetto questo spettacolo di magia lungo circa 2 ore. La Rosa Purpurea. Abbiamo sempre pensato che la vita aliena provenisse dalle stelle, ma proviene dal profondo del mare. Il primo kaiju approdò a San Francisco. Il secondo attacco colpì Manila. E poi il terzo colpì Cabo. Così capimmo che la cosa non si sarebbe mai arrestata. Per combattere i mostri, abbiamo creato dei mostri a nostra volta. Eccola qui la battaglia dei robottoni contro i godzilloni, sostanzialmente, di Pacific Rim Colossal, firmato Guillermo del Toro, che arriva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con le speranze dei distributori di fare incassi importanti. 2 ore di grande battaglia fra colossi, nella più classica tradizione proprio del film di invasione aliena di una certa dimensione, appunto, con città distrutte, navi usate alla stregua di mazze da baseball, con la distruzione dell'umanità latente, imminente e un manipolo di uomini che si sforzano di evitarla. Avete sentito appunto nella clip il mondo che ha visto arrivare dal centro del mare, dalle viscere, la sua grande minaccia attraverso questi enormi mostri viventi e cattivissimi che si moltiplicano e come numero e anche come distanza dalla quale si presentano l'uno dall'altro, prima mesi, poi giorni, poi ore e addirittura poi arrivano a minacciare tutto il nostro pianeta. Per fronteggiare questa invasione, l'uomo cosa fa? Fa dei mostri a sua volta, alti uguali, 40-50 metri, dei veri e propri robottoni come quelli degli anime giapponesi che quando eravamo ragazzini popolavano i nostri pomeriggi, da Mazinga a Goldrake, e cerca di sbatterglieli contro. Il problema, anzi, da una parte la possibilità, l'opportunità, è quella che questi robottoni vanno guidati da uomini, anzi da due uomini, da due persone. In realtà nel film alla fine la coppia vincente sarà un uomo e una donna, che fondono i loro pensieri, li mettono praticamente in comune e li mettono a servizio della macchina, in modo che macchina e due cervelli dei due piloti siano la stessa identica cosa. I piloti abitano nella testa del robot guerriero, e quindi questo, ripeto, fa venire in mente un immaginario veramente molto molto presente. Avevamo bisogno di una nuova arma. Nacque il programma Jaeger. Due piloti, le nostre menti, i nostri ricordi interconnessi. L'uomo e la macchina divennero una cosa sola. Oggi noi cancelleremo l'apocalisse! Boris, Pacific Rim è il classico caso di film di Colossal che, se lo fai sbagliato, diventa una boiata pazzesca, come diceva qualcuno prima di noi, ma se lo metti in mano al regista giusto, appunto Guillermo del Toro è sicuramente un visionario in questo senso, diventa un divertimento, ma sicuramente un grande spettacolo di intrattenimento, però con tutti i meccanismi che funzionano e che succedono quando devono succedere, e mi sembra francamente questo il caso. Ma d'accordissimo, questa sceneggiatura e questo punto di partenza potevano essere la più grande trappola per qualsiasi regista, non per Guillermo del Toro, come dici tu, perché lui sa che il cinema è gioco, e in questo caso ha voluto costruire il giocattolo più divertente degli ultimi anni. Adesso, al di là della qualità cinematografica, che è alta, perché lui sa costruire un immaginario, sa costruire un mondo, sa girare, secondo me, in maniera straordinaria, e sa anche tirare fuori da attori più o meno mediocri quello che gli necessita. Qui gioca con un immaginario che fa parte delle ultime generazioni, anzi delle penultime se vogliamo, perché i Godzilloni e i robottoni sono nati negli anni 70-80, prende per spunto tanti cartoni animati giapponesi, in particolare uno in cui appunto metà film, girato metà dal vivo e metà in animazione, in cui nella testa del robot si dividevano addirittura a metà le due persone che combattevano. Qui invece condividono solo i ricordi, e non è poco. La cosa divertente è che con Guillermo del Toro non ti chiedi minimamente se la verosimiglianza possa esserci o meno. Partiamo dal presupposto che, per esempio, quel sistema di guida degli Jaeger è assolutamente folle, perché condividere i ricordi è pericoloso e non aiuta, ma sicuramente poi sostanzialmente far sì che quelli diventano degli esoscheletri in cui tu ti devi muovere come e con il robot è di sicuro molto più scomodo che essere un kaiju. Ma sono delle piccole cose che non contano nulla, perché appunto là conta il divertimento, conta il combattimento, conta anche la follia di alcuni momenti che diventano quasi comici, e dove non, pur diventando quasi comici, non si perde la tensione. Altro grande talento di Guillermo del Toro. Devo dire, è bello anche il côté sentimentale del film, che poteva in qualche modo sgonfiarlo e che invece ha quel giusto, la giusta quantità di romanticismo e di cialtronaggine che può far ridere, così come i rapporti virili tra commilitoni di diversa natura, cioè, si fa in tempo persino a commuoversi per un minuto e mezzo. Io credo che Pacific Rim sia senza ombra di dubbio il film dell'estate. E un po' mi dispiace che sia uscito in estate, perché questo secondo me non sarà positivo per i suoi incassi. Sembra incredibile che non si creda in un film che al cinema fa quello che dovrebbero fare molti film, cioè divertire e divertire tanto. Beh, in effetti poi è una uscita day and date con tutto il resto del mondo, quindi in America probabilmente questo è il momento di portare a casa i risultati per questo film. Io dico solo che era 35 anni che aspettavo un film, appunto, di vedere Goldrake o di vedere Mazinga al cinema, cioè di vedere i robot di 50 metri in metallo che combattono come abbiamo visto quando eravamo bambini, e quindi davvero, secondo me, muove anche tutto un effetto nostalgia su una generazione, come hai detto tu, penultima, forse anche terzultima, diciamo così, di oggi. Sicuramente comunque un grande spettacolo, un grande intrattenimento. Boris, rimani con noi, noi adesso cominciamo a giocare con il nostro DVD Game, perché come sempre vogliamo regalare i film più belli della stagione e del passato ai nostri ascoltatori, provando a indovinare questo film. Per la pace mancano ancora 200 e il mese entrante già bussa alla porta. Provvederò al più presto. Spero. E intanto grazie per la pazienza. Una pazienza è solo una forma minore di disperazione. La Rosa Purpurea @radio24.it, questo è l'indirizzo di posta elettronica a cui dovete scrivere il titolo del film, secondo voi, avrete altre due possibilità più tardi, e il vostro indirizzo per provare a vincere una copia appunto in DVD di questo film per il sabato e una per la domenica. Parliamo adesso di Oggetti Smarriti, un altro film che arriva in sala in questo fine settimana, un film italiano, un film davvero particolare, davvero... molto molto anomalo nel panorama cinematografico italiano, un film che racconta parte, anzi, da un presupposto che ci tocca tutti, quello della memoria, quello di quante volte pensiamo di cerchiamo gli occhiali mezz'ora e poi ce li abbiamo in testa, oppure cerchiamo le chiavi della macchina e le abbiamo messe dove le mettiamo da anni, ma quella volta lì non le trovavamo, insomma... Il nostro rapporto con la memoria breve, chiamiamola così, ma lo fa poi per entrare in un mondo surreale e per raccontare forse che gli oggetti smarriti veri siamo noi su questo pianeta, in questa vita. Allora, ascoltiamo questa clip e poi ne parliamo con il regista Giorgio Molteni. Quanto spesso vi capita di perdere degli oggetti? Un'infinità di volte, vero? Tuttavia, nella maggior parte dei casi, dopo un iniziale spaesamento, siamo in grado di ritrovarli senza difficoltà. Piccolo vuoto di memoria, un cortocircuito nell'ordinaria serie di circostanze che portano un oggetto a essere sempre al suo posto. E allora siamo in collegamento con Giorgio Molteni, che sta girando sul set il suo nuovo film. Noi lo abbiamo disturbato, l'abbiamo interrotto per farci invece raccontare un po' qualcosa di più di questo Oggetti Smarriti. Giorgio, dietro questa piccolo lapse of reason, no? Questa piccola lacuna della nostra mente, il tuo film forse racconta che i veri oggetti smarriti siamo noi. Sì, questo, sì, in effetti... È un pretesto per cioè lo smarrimento di piccoli oggetti di uso comune e quasi a cui noi non diamo grande rilevanza. In realtà il film dice spesso siamo noi gli oggetti più importanti che ad essere previsto che si smarriscono. Però la cosa insomma, interessante e curiosa del film è che il film dice che gli oggetti vanno a finire in una realtà parallela alla nostra, simile ma irreale, dove c'è un mondo in cui finiscono tutti questi oggetti smarriti. Questo succede anche al nostro protagonista, preso di mira dal burattinaio Deus Ex Machina di questo mondo fatto di oggetti smarriti, questa area misteriosa, e lui non se ne accorge a un certo punto di essere finito, pensa di essere a casa sua, ma non è casa sua, è a casa sua, ma è la casa degli oggetti smarriti, dove vanno a finire, la casa smarrita degli oggetti smarriti, eccetera, eccetera. E ad un certo punto il film sterza in una dimensione surreale, irreale, che crea poi anche una dimensione di thrilling, no? Il surreale è un genere che il cinema italiano, soprattutto negli ultimi anni, non ha praticamente mai frequentato, sebbene fossimo maestri, mi viene da dire da Fellini in giù, di surrealtà. Ecco, come hai lavorato a questo aspetto, che soprattutto con pochi mezzi non è semplicissimo da rendere al cinema, e mi sembra che tu ci sia riuscito piuttosto bene. Io non avevo a disposizione nessun effetto speciale, né visivo, né ottico, né... Niente, l'ho fatto col montaggio, con le inquadrature, con gli attori, le scenografie, tutto qua. Insomma, come si fa il cinema, diciamo così, di solito? Il cinema vero è questo qua, poi c'è anche il cinema super giocattolone con gli effettoni che ti fanno esplodere, che ti portano in altri modi, molto disegnati, no? E va benissimo, grossi fumetti. Questo non è un fumetto, è una sfida, perché tu con il linguaggio, cioè con la grammatica tradizionale del cinema, devi riuscire a portare lo spettatore in una dimensione altra. E io credo di esserci riuscito, tant'è che almeno così dicono anche le persone che l'hanno visto. Allora, Oggetti smarriti nelle sale cinematografiche italiane. Grazie, sì. Giorgio Molteni, ti rimandiamo set a dirigere. E sì, infatti stiamo preparando l'altra scena, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. La Rosa Purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea, ancora cinema, ancora grandi attori, e qui grandi attori è con la G e con la A maiuscola, perché quando in un cast io vedo in una locandina Al Pacino e Christopher Walken, un po' mi commuovo, devo dire, e sono già sicuro di andarlo a vedere, poi magari il film delude, che ne so. Non è questo il caso, mi hanno di vedere Uomini di Parola, il film di cui vogliamo parlarvi, di Fisher Stevens, con appunto Al Pacino, Christopher Walken e Alan Arkin, che magari ha un grado in meno di notorietà, di popolarità, soprattutto su chi non ha tanti anni, ma assolutamente è un'altra faccia di quelle che abbiamo visto in mille film. Un trio di attori vecchi, vogliamo dire, non giovanissimi, ecco, per usare un eufemismo, al servizio di una storia da cinema anni 70, una di quelle belle storie di gangster un po' sgangherati, un po' a fine carriera, sul viale del tramonto, con i valori, ancora con i valori, questi tre che si rimettono insieme per cercare soprattutto di vivere una nuova vita. La storia è quella di Al, appunto interpretato da Al Pacino, che esce di prigione dopo aver scontato 28 anni di pena. Fuori, all'uscita del carcere, c'è un vecchio amico, un vecchio complice, Doc, che è appunto interpretato da Christopher Walken, che lo accompagna nella sua prima notte da uomo libero, e quindi scorribande, eccetera. Doc, però, scopriremo, ha un compito preciso che gli è stato dato dal boss, che all'epoca aveva perso l'unico figlio nella rapina che aveva poi portato Al in carcere. Al in carcere per 28 anni era stato zitto, non aveva detto niente, ecco anche un po' la spiegazione del titolo, Uomini di Parola. Adesso è uscito, è un uomo libero, o forse no? Quando sei uscito, Val? Oggi? Sì. Ma che... Non è vero, chiedi a Doc. Sono serio? Sì. Siamo stati liberati insieme. È bello condividerlo. 28 anni. 28 fottutissimi anni. Hai scontato la tua pena da uomo, Val. Un uomo di parola su tutta la linea. Ma tu e Doc avreste fatto lo stesso. Beh, mi piace pensarlo, se non altro. È possibile, sarebbe stato possibile, ma alla fine l'hai fatto tu. È vero. Non posso immaginare che non abbiate mai lavorato insieme in tutti questi anni. No, il Clappens ci ha mandato in pensione, fine. È andata così. Non riesce a perdonare se stesso e quindi tutti gli altri la devono pagare. Come dicevo, comincia una notte o qualche giornata, insomma, di grande libertà, quasi a voler tirare le fila di una vita, voler portare a casa tutti i desideri che in quei 28 anni non sono potuti diventare realtà. Per quanto riguarda Al, come potete immaginare, anche a partire da una certa fame di donne. Non avevi detto che eri in pensione? Infatti, ma certi strumenti... Non puoi rinunciarci. Prego, sì, accomodati. Potevo farlo anche col mio uccello. Un tempo, è per lui che siamo qui. Oh, questa era veramente cattiva. Mi dispiace. Ti ricordi quella volta che hai buttato il greco fuori dalla finestra dell'albergo? Certo. È caduto dritto su un venditore di carne. È l'unica cosa di cui mi pento. Oh, con questa sì che mi frego la condizionale. Sta tranquillo, tanto dovevo prendere comunque un'altra confezione di Nexium. Ma quante porcate prendi? Un sacco. Boris, un film che mi dà un effetto quasi di, anche per i suoi andamenti lenti, per questi vecchi gangster che camminano in maniera un po' tutti acciaccati, vanno, come abbiamo sentito, vanno a rapinare le farmacie di notte perché hanno bisogno degli antidepressivi o di altro. Insomma, dà quella sensazione quasi assolata, di siesta in un certo senso, no? Di voglia di rallentare, che io associo tecnicamente anche un po' a molto cinema degli anni 70, insomma, che cerca di avere il contenuto al posto dell'adrenalina a tutti i costi che viene insufflata in maniera artificiale in molti film di oggi. E questo me l'ha fatto diventare, insieme alla prova di questi tre attori che insieme sono secondo me irresistibili, me l'ha fatto diventare un film, un piccolo film di culto in un certo senso. Guarda, sono d'accordo su tutta la linea, perché quando tu vedi un cast con Pacino, Walken e Arkin, dici: è troppo bello per essere vero, andrà male, come spesso accade, insomma, negli ultimi anni troviamo magari vecchie glorie che poi messe insieme non sono efficaci come dovrebbero o come vorresti semplicemente. E invece qua sono meravigliosi, si prendono questo film che persino nel titolo italiano è vintage, sembra veramente uscito fuori da una sala di 35 anni fa, e si mettono a fare un film che, come dici tu, l'adrenalina la costruisce sui dialoghi, sul contenuto, su ciò che aspetti che possa succedere, anzi che deve succedere, perché ricordiamo sempre, i veri gangster movie sono fatti di cose che devono succedere, che sono inevitabili, è per quello che noi simpatizziamo ed empatizziamo con i criminali, perché sembra sempre che devono fare qualcosa, che devono rispondere a un codice, e non che possono fare qualsiasi cosa come nei film d'azione precedenti. Sembra un discorso, tra virgolette, da vecchi, da nostalgici, però è così. Insieme a questo bisogna dire che Fisher ha una grande idea, cioè quella di prendere tre attori straordinari e non, di fatto, non dirigerli, non invadere il loro campo, per il semplice motivo che sono troppo bravi perché tu possa mettergli un guinzaglio. Loro sono bravissimi, in particolare Walken e Pacino, continuamente si passano la palla come se fossero, che ne so, una prima o una seconda punta su un campo da calcio che si trovano a memoria, due gemelli del gol. E non ne sbagliano una, non sbagliano un ritmo, persino Pacino, che negli ultimi anni non sembrava in grandissima forma, trova uno stato di grazia straordinario. È un film di genere, un film di quel tipo che dicevi tu, un gangster movie in cui il contenuto è più importante della forma e del ritmo, ma il ritmo c'è lo stesso perché ogni battuta è intrisa di quel ritmo, quindi io è un altro film in cui mi sono divertito tanto. Ecco, il cinema a volte ce lo dimentichiamo che è divertimento, e qua te ne esci proprio con rilassato, contento di aver passato circa 2 ore a vedere come si fa il cinema. Adesso è ora di spaccare il culo o masticare una gomma. E indovinate un po'. Io ho finito le gomme. Ehi, Val. Sì. È come ai vecchi tempi, non è vero? No. È meglio. Sì. Perché? Perché questa volta possiamo apprezzarlo. E allora era il film Uomini di Parola nelle sale in questo fine settimana. Noi ringraziamo Boris Sollazzo per averci raccontato, come sempre, anche la sua su queste novità. Avete visto, settimana ricca e anche con una certa qualità. Noi siamo alla seconda traccia del film misterioso di oggi. Che dici? Mica lavoravano, vivevano nelle caverne. Sì, però andavano a caccia, disegnavano sui muri, tenevano acceso il fuoco. Ho capito. Lavoro quando ti svegli presto, i colleghi, la pausa caffè, la busta paga, fine. La Rosa Purpurea @radio24.it, vi ricordo sempre il nostro indirizzo di posta elettronica, diteci di che film si tratta con il vostro indirizzo per provare a vincere una copia in DVD. Più tardi, fra poco, ci sarà l'ultima possibilità. E adesso andiamo fuori dal seminato delle uscite in sala per parlare di un premio che è stato consegnato la scorsa settimana a Riccione nell'ambito delle giornate professionali di cinema estive, il CineChuck d'oro, assegnato dalla rivista Chuck, diretta da Piera De Tassis, alla commedia italiana, e quindi andando a valorizzare attori, attrici, sceneggiature, film, novità che riguardano questo genere che ha fatto grande il cinema italiano e che è tornato prepotentemente, al di là poi dell'analisi qualitativa che si possa fare, magari non sempre uniforme, negli ultimi anni. E allora andiamo ad ascoltare sul premio un po' una valutazione di Piera De Tassis su quella che è stata l'annata della commedia italiana. Allora, è stato un anno in cui il temperamento femminile è venuto molto allo scoperto. Basti pensare appunto a Amiche da morire, ai Trio, a Maria Sole Tognazzi, insomma, comunque c'è stata molta produzione. La miglior commedia premiata da noi, per noi, secondo noi, è Una famiglia perfetta, Paolo Genovese. Sicuramente la più bella, anche proprio un po' sottovalutata, diciamolo, sia dai premi che dal botteghino. Si va verso un punto d'equilibrio, no? In cui la commedia non è più una cosa di cui vergognarsi, ma ritorna con lo strumento di narrazione del mondo che è stato negli anni caldi della commedia italiana, però la qualità del cinema non viene messa da parte e si cerca di unire, come dire, popolarità appunto del prodotto con qualità del prodotto. E fra i premiati, come dicevamo, Claudia Gerini che ha avuto il premio come commediante dell'anno, chiamiamola così, come attrice che ha saputo con la sua presenza, magari a volte anche non da protagonista assoluta, però valorizzare meglio le commedie in cui è stata impiegata, soprattutto Una famiglia perfetta, mi viene da dire che è stato, a mio modo di vedere, uno dei due film più belli insieme a Viva la Libertà dell'anno per quanto riguarda l'Italia. E allora, ai microfoni della Rosa Purpurea c'è Claudia Gerini. Ti abbiamo lasciato nelle sale in questi giorni con Tulpa, horror venato di pulp quasi, e poi un premio alla commedia. Questo per dire che, insomma, è un premio, questo Ciak d'Oro Absolute Comedian, importante, penso, perché fotografa una tua fase della carriera che ti ha dato tante soddisfazioni e che ti sta collocando in maniera molto chiara. Ma sono felicissima, orgogliosissima ovviamente di questo premio, perché la commedia fa parte proprio del mio DNA. Ho iniziato piccolissima, a 15 anni, a fare le primissime apparizioni cinematografiche proprio con una commedia di Sergio Corbucci. Poi ho continuato e la gente mi ha iniziato a conoscere sul grande schermo. Il primo grande successo è stato proprio Viaggi di nozze, e da lì poi sono venute tante altre. Ma la commedia è un ambiente che mi è caro, che mi è familiare, di cui ne vado orgogliosa. Ovviamente poi mi affaccio in altri generi, guai a non esplorare, ci mancherebbe. Ho fatto film d'autore, ho fatto film drammatici, appunto un giallo, però la commedia non l'abbandonerò mai, mi fa molto piacere, ti ripeto, sono orgogliosa poi che mi considerino un'attrice brillante che può dare sempre un bel tocco a una commedia. Qual è il genere non commedia invece su quale tu ti senti ancora di poter dire qualcosa che non è stato ancora visto, qualcosa che potrebbe sorprendere? Ma nei film drammatici, nei film d'azione, nei film... D'azione non è male. Mi viene in mente un film d'azione... Però anche nei film drammatici, ma sai, secondo me se ci sono delle storie belle, dei ruoli importanti che non ho, delle storie che non hai mai fatto, ce ne sono ancora tante, cioè non solo nel dramma. È ovvio che nel dramma ho fatto delle scelte forse molto rigorose, per cui ecco, il grande pubblico, ecco, mi manca forse un bel film d'autore drammatico che possa arrivare al grande pubblico. Tu hai fatto un cenno prima al film d'azione, mi hai incuriosito, cioè in quale ruolo ti vedresti? Nell'eroina. Ovviamente, in quella che mena. Fare, esatto. Nella donna che si riscopre, così mi viene in mente una vendicatrice di tutte le femmine che con le sue arti marziali stende chi vuole. La Rosa Purpurea. E siamo ancora insieme alla Rosa Purpurea, la quarta parte, siamo pronti, siete pronti ai consigli di visione in questa estate in TV, tanto cinema di qualità, tanti film di qualità per potersi rifare un passato, diciamo così, e anche magari rispolverarlo, ove se ne abbia uno già abbastanza consistente, con il cinema, gratuitamente ovviamente sulle reti del digitale terrestre. Lo facciamo come sempre con gli amici del settimanale Film TV, c'è con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Allora, oggi siamo stati abbastanza vicini con le nostre segnalazioni a questa puntata, quindi un paio di segnalazioni per domenica sera e per lunedì pomeriggio, quindi anche la memoria, anche se siete in giro, se siete al mare o chissà, insomma, dovrebbe tenere. E cominciamo con un film davvero molto particolare, l'ho amato appena l'ho visto, fu presentato a Venezia, se non sbaglio, un paio di edizioni fa, e si intitola Il Mundial Dimenticato, e cerca di raccontare la storia di un mundial che non si è mai giocato. Esattamente, domenica su Rai Storia alle 21.35 il Mundial Dimenticato, ovvero la vera e incredibile storia dei mondiali di Patagonia, come recita il sottotitolo di questo mockumentary italo-argentino, ovvero un film che documenta come fosse vera una storia leggendaria. Qui si racconta il mito di un presunto mondiale di calcio in Patagonia nel 1942, un mondiale di cui parlò anche Soriano in un suo racconto, un momento di storia del calcio che ci si dice non essere mai stato riconosciuto dagli organi ufficiali, giocato mentre in Europa l'Europa affrontava il nazismo. È un film che prende il via, molto ironicamente, dal ritrovamento di antichi materiali d'archivio in mezzo a fossili, ed è una bellissima ricostruzione che lascia allo spettatore, secondo gli autori, il compito di stabilire dov'è il confine tra la memoria e la leggenda, la realtà e l'invenzione. Inutile dire che è talmente ben fatto che in tantissimi ci sono cascati a questo assolutamente gioco. Sono andati a cercare il mondiale del 42 in Patagonia, che in effetti non c'è mai stato. Il mondiale dimenticato, davvero un bel film da vedere su Rai Storia, digitale terrestre, domenica 12 luglio alle 21:35. Invece il giorno dopo, il pomeriggio dopo, un classico firmato Alfred Hitchcock come Il caso Paradine. Sì, lunedì su Rai 3 alle 15:45 Il caso Paradine. Il colonnello Paradine viene trovato morto, la sua vedova viene accusata di omicidio, l'avvocato difensore se ne innamora mettendo in a rischio la propria integrità morale e il proprio matrimonio. È un film fortissimamente voluto dal produttore David O. Selznick, produttore che impose il cast incredibile di questo melodramma giudiziario con Alida Valli, Gregory Peck e Charles Laughton. È un film che Hitchcock diresse con malavoglia, ma è comunque una ciambella venuta con il buco, un grandissimo film, un viaggio verso l'abisso di un uomo di legge nel palcoscenico di un tribunale dove si intrecciano giochi di coppia che sono sempre anche giochi di potere, come sempre in Hitchcock. E allora non lasciatevi sfuggire questo classico come Il caso Paradine, lunedì 13 luglio alle 15:45 nel pomeriggio. Grazie a Giulio San Giorgio di Fil TV e appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. Allora, archiviate le novità, anzi, le vecchie glorie, i vecchi film da rivedere in TV. Andiamo avanti con la terza e conclusiva traccia del game di oggi. Tuo figlio è scomparso, Tre. Come è scomparso? È stato adescato da un uomo col borsello, molto probabilmente un maniaco. Ma cosa ne sai che è un maniaco? Ma infatti, potrebbe anche essere un assassino, un satanista, un trafficante d'organi. Fatto sta che adesso sta andando in Svizzera a cavargli un reno, che ne sai, magari tutte e due. Bellin, che catastrofista però, sei. No, cioè, allora strammatizziamo. La Rosa Purpura @radio24.it, questo l'indirizzo a cui spedire la risposta per provare a vincere il DVD di questo film. 7 giorni fa avevamo giocato così. Gli stati del nord ratificheranno per la maggior parte. Basterà che lo facciano altri 2 stati del sud, anche dopo che saranno stati tutti riammessi. E me ne sto occupando. Beh, da questa traccia era chiaro, questa era la terza traccia che avevamo lanciato. Si trattava di Lincoln, hanno indovinato per primi e quindi si portano a casa il Blu-ray di questo film di Steven Spielberg. Paolo Savina di Gattatico, provincia di Reggio Emilia, e Adriana Nogherotto di Gemona, provincia di Udine, saranno loro a ricevere il Blu-ray del film Lincoln, uno dei film che hanno segnato un po' la prima parte di questa stagione e di cui il nostro Claudio Poffi, che è in collegamento con noi, ci parla così. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, allora, da 20th Century Fox Home Entertainment, l'edizione un video con la pubblicazione del DVD, ma soprattutto del Blu-ray, quest'ultimo di eccellente qualità di immagine, è capace di restituire la grande fotografia di Janusz Kaminski, collaboratore di lungo corso di Spielberg, che qui ha impostato i colori per sottrazione, contribuendo davvero alla pasta storica del racconto. Per l'audio c'è l'ottima traccia di TS in italiano, superiore sicuramente all'originale di TS ad alta risoluzione in inglese. Come extra segnalo 6 capitoli di approfondimento sulla lavorazione con interventi di cast e troupe. Questo allora per quel che concerne Lincoln, il game della scorsa settimana. 2 novità invece che arrivano in questi giorni nelle videoteche. Cominciamo da un film di Ken Loach. Tra l'altro di Ken Loach sta per arrivare il nuovo Spirit of 45, qui invece ci incontriamo con un altro suo titolo del passato, Fatherland. Blues, socialista convinto, ma al tempo stesso contrario allo stalinismo che controlla la Repubblica Democratica Tedesca, nel 1985 il cantautore Klaus Trittermann fugge da coloro che gli impediscono di esprimersi liberamente e raggiunge la Germania Ovest. Accolto a braccia aperte da una casa discografica che spera in grandi profitti attraverso le sue canzoni, Klaus è disinteressato al contratto, mettendosi invece sulle tracce del padre, artista scomparso nel nulla nel 1953, militante tra le file della resistenza in Spagna e Germania. Prima della caduta del muro di Berlino, il maestro Ken Loach realizzò questo dramma che palesava il suo pensiero contrario sia al regime stalinista che verso il macchiettistico capitalismo d'Occidente, considerandoli entrambi mali di vivere. Da Minerva Raro Video, l'edizione solo DVD di uno dei film più belli ma forse meno noti di Ken Loach. Qualità d'immagine buona, un'unica traccia audio, quella originale, Dolby Digital, due canali in inglese e tedesco, di dignitosa resa con sottotitolo in italiano. Come extra introduzione al film, a cura del collega Boris Sollazzo, è un prezioso libretto di approfondimenti. E allora ritroviamo il nostro Boris di famiglia anche qua nella sezione un video. Andiamo invece alla prossima segnalazione, un film dell'inizio di questa stagione, una sorta di commedia del lavoro, chiamiamola così, della commedia umana del lavoro, questo Studio Illegale di Umberto Carteni. Ma tu non ci pensi mai a cambiare? Fare qualcosa di diverso? Andrea, ti prego, non attaccare col solito melodramma, No, è che vorrei fare qualcosa di più appagante. Fermarsi. Oh, scrivere poesie. Le poesie? Che pirla! No, ma dico sul serio, ma tu non ce l'hai un sogno? Cioè, se tu potessi scegliere, cosa faresti? Ok, va bene. Allora deve essere qualcosa di creativo, qualcosa di socialmente utile, qualcosa di originale, con un sacco di segretarie nude. Rampante avvocato milanese, Andrea ha sacrificato e sacrifica quasi tutto in nome del lavoro, almeno fino a quando il suicidio di un collega, una nuova sfida lavorativa e una francese per nulla incline a cedere al suo fascino, non lo metteranno di fronte a se stesso e alla superficiale e insulsa vita che conduce. Commedia ordinaria tratta dall'omonimo romanzo di Federico Baccomo, che prova a divertire mettendo al pubblico ludibrio la categoria poco amata degli avvocati, ma sì, dei denti stretti. Da Warner Home Video l'edizione solo DVD, peraltro di ottima qualità, traccia audio Dolby Digital multicanale in italiano di Parivesa, come extra segnalo un dietro le quinte. E allora, questo era Studio Illegale, l'ultimo lavoro arrivato in sala di Fabio Volo. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E ok, siamo arrivati alla fine allora di questa nostra puntata. Non mi resta il tempo che per ricordarvi la nostra pagina Facebook, che in settimana ha superato il traguardo dei 2000 mi piace, che sono insomma i 2000 membri di questa grande famiglia della Rosa Purpurea. Allora, la Rosa Purpurea Radio 24, cercatela su Facebook, cliccate mi piace, unitevi anche voi e diteci la vostra, oppure venite a conoscenza magari di qualche notizia e informazione durante il corso della settimana, oltre a poter scaricare ovviamente la puntata in podcast. E poi ringrazio anche come sempre il solito lavoro in redazione Giorgio De Luca, in regia Peter Bescapè. Noi ci risentiamo la prossima settimana qui su Radio 24 per la Rosa Purpurea.